Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Crisi, le mosse del governo, abolizione delle province, pareggio di bilancio in Costituzione. Allarme OCSE per la crescita, economia in stagnazione, l'Italia sarà negativa nel terzo trimestre. Oggi la manovra passa alla Camera, attesa anche per la decisione della BCE sui titoli di Stato italiani. Libia, Gheddafi torna a parlare, menzogne sulla mia fuga dal paese. Festival del cinema di Venezia, grandi applausi per la commedia americana di Friedkin in concorso. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24. In apertura dunque le mosse del governo sulla crisi con il via libera al pareggio di bilancio in Costituzione e anche all'abolizione delle province, sempre con legge costituzionale, in una giornata nella quale la manovra economica passa alla Camera e c'è attesa anche per il giudizio della Banca Centrale Europea che dovrà valutare il riacquisto dei titoli di Stato italiani. Ma andiamo con ordine e cominciamo dalla mattinata e dalla decisione del governo col Consiglio dei Ministri. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Pareggio di bilancio e abolizione delle province, due disegni di legge costituzionali per un Consiglio dei Ministri durato poco meno di un'ora e mezza. Il pareggio di bilancio in Costituzione, ha spiegato il Ministro dell'Economia Tremonti, non sarà solo un criterio contabile ma un principio ad altissima intensità politica e civile. Stando al testo varato dall'esecutivo, il vincolo sui conti che entrerà in vigore dal 2014 varrà anche per gli enti locali, che dovranno tenerne conto nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrate e di spese. Potranno ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E poi in arrivo la tanto annunciata abolizione delle province, il DDL prevede che le loro funzioni saranno divise tra regioni e città metropolitane, scompariranno anche quelle delle regioni a statuto speciale, fatta eccezione per Trento e Bolzano. I due provvedimenti, andando a modificare parti della Costituzione, dovranno seguire un iter parlamentare più articolato rispetto a quello della legge ordinaria, doppia lettura, doppia votazione in ciascuna delle due Camere, con un intervallo non inferiore a 3 mesi tra una lettura e l'altra. Dunque tempi lunghi, ma il Ministro dell'Economia Tremonti auspica che la discussione sia comunque costruttiva nell'interesse del Paese. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Nessun commento da parte del Capo dello Stato, che invece nei giorni scorsi ha giocato un ruolo di richiamo alle parti politiche. Ha detto oggi Napolitano: non vi affannate senza motivo, non mi imbarco in dichiarazioni, sono qui per onorare una grande personalità del Parlamento italiano e dell'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe La Loggia. Così appunto il Capo dello Stato, che ha assistito oggi alla cerimonia per il centenario della nascita di La Loggia. E ora veniamo, come detto, al percorso parlamentare della manovra economica. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Decreto atteso qui alla Camera dopo il via libera ieri sera di Palazzo Madama. Il testo passerà alla Commissione Bilancio per approdare quindi in aula a Montecitorio lunedì a partire dalle 15. Visti i tempi, il governo dovrebbe decidere per la fiducia, che arriverebbe tra mercoledì e giovedì. Quanto ai contenuti, la manovra esce dal Senato con un impatto nel 2013 da 54,2 miliardi. L'innalzamento dell'IVA di un punto porterà un maggiore gettito di 700 milioni di euro quest'anno e di 4,2 miliardi dal 2012. Vi è poi l'adeguamento delle pensioni delle donne nel settore privato a partire dal 2014, il contributo di solidarietà viene previsto fino a pareggio di bilancio del 3% sopra i 300.000 euro. Sempre sul fronte fiscale vi è la proroga dell'accertamento del condono del 2002, diventa meno rigida la norma della manovra che prevede il carcere per chi evade oltre 3 milioni di euro. I costi della politica quindi vengono rivisti a ribasso, i tagli alle indennità dei parlamentari che hanno un'altra professione, anche l'intervento sulle retribuzioni inferiore a quanto previsto inizialmente varrà fino al 2013, dalla misura vengono comunque esclusi Quirinale e Corte Costituzionale. E da Roma è tutto. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta. Intanto da registrare c'è anche il commento dell'OCSE proprio sul decreto della manovra economica italiana, misure importanti che vanno nella direzione giusta, così l'Istituto di Parigi, dal quale però arrivano anche numeri preoccupanti per l'economia italiana ed europea. Infatti l'OCSE prevede che nella seconda metà del 2011 Germania e Italia registrino un trimestre di crescita negativa, per l'Italia la frenata sarà dello 0,1% nel terzo trimestre. Sempre secondo l'OCSE poi l'economia complessiva dei paesi industrializzati è ormai vicina alla stagnazione. E torniamo ancora per un momento alla manovra economica. Sul decreto è atteso oggi anche un giudizio della Banca Centrale Europea. Sentiamo. I mercati finanziari sono rimasti praticamente immobili stamattina nell'attesa delle decisioni della Banca Centrale Europea, dalla quale si aspettano fra poche decine di minuti due risposte. Per l'Italia la più importante è sapere se la BCE continuerà gli acquisti di titoli di Stato italiani e spagnoli, che nelle ultime settimane sono state l'unica difesa contro un crollo dei mercati che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. Una decisione non scontata, aveva ammonito nei giorni scorsi il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, prossimo presidente della BCE. Molto dipenderà dalla valutazione che i banchieri centrali riuniti a Francoforte hanno dato della manovra appena varata dall'Italia. Una manovra che probabilmente non corrisponde in tutto alle indicazioni che la BCE aveva dato il mese scorso, ma che almeno comincia a mostrare la volontà di sistemare il bilancio. Un giudizio positivo iniziale è venuto stamattina dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble in un'intervista a una radio locale. L'altra questione in sospeso nella riunione della BCE è la direzione dei tassi di interesse. Dopo due rialzi negli ultimi mesi, la banca si vede costretta dal netto indebolimento dell'economia dell'Eurozona a fare una pausa e la prossima mossa dovrebbe anzi essere al ribasso, ma probabilmente non oggi. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E allora andiamo a fare un punto sui mercati finanziari con Deborah Rosciani, questa giornata particolare per noi, Deborah. Sì, di attesa. Come diceva Alessandro Merli, questa mattina effettivamente le quotazioni degli indici sono state abbastanza tranquille, almeno nelle prime battute. Poi con maggior decisione gli indici del vecchio continente hanno intrapreso la strada positiva e adesso guadagnano tutti il terreno. Londra più 0,55%, Parigi più 0,65%, Francoforte in rialzo dello 0,49%, la regina d'Europa è Milano, Fuzzi MIB in rialzo di un punto, è arrivata a guadagnare anche un punto e mezzo ed è partita con un ribasso dello 0,8%, molto volatile la seduta di Milano. Attesa per la decisione della Banca Centrale Europea anche sui tassi di interesse che dovrebbero essere mantenuti invariati all'1,5%, e forse Trichet dirà che piuttosto che un rialzo aspettato fino a qualche settimana fa si dovrà procedere adesso verso la strada di un ribasso dei tassi per aiutare nell'economia, ma lo sapremo nella conferenza stampa delle 14:30. Per il resto oggi sugli scudi tutti i titoli del settore bancario a Milano che stanno recuperando un po' dei passi persi nelle sedute nere di venerdì scorso, lunedì e martedì. UbiBanca più 4, Campari più 3, Fondiaria più 3, Buzzi Popolare di Milano in rialzo di 2,5 punti. Euro su dollaro a 1,40,49, corre ancora anche l'euro sul franco svizzero a 1,21,37, spread fra BTP e Bund sui 330 punti base. Alessio. Grazie Deborah Rosciani. Così dunque la situazione sui mercati. Noi però continuiamo a valutare l'impatto della manovra economica sui vari settori dell'economia e della società italiana. È una manovra che, come scrive Il Sole 24 Ore oggi in edicola, si basa per oltre il 60% su nuove entrate e, secondo la sociologa Chiara Saraceno intervistata da Valentina Furlanetto, saranno le donne a pagare il prezzo più alto della manovra bis. Sentiamo. Viene anticipata l'innalzamento dell'età alla pensione, ma senza prendere in considerazione i costi che ha per le donne, per molte donne, stare nel mercato del lavoro, in quanto sono sovraccaricate da un doppio lavoro che riguarda solo marginalmente gli uomini. E d'altra parte i tagli ai comuni o agli enti locali in generale incidono fortemente sull'offerta di servizi. Quindi parliamo di tagli che potrebbero riversarsi nel meno posti agli asili nido. Sì, certamente, meno, già si sentono i comuni che dicono che non saranno in grado di offrire tutti i servizi, che poi i servizi sono in grande misura servizi alle persone, quindi asili nido, mense scolastiche, prolungamento del tempo scolastico che è già stato tagliato duramente dalla riforma Gelmini della scuola dell'obbligo e che a volte è stato integrato ai comuni ma che adesso non riusciranno a farlo, servizi per gli anziani. E mi colpisce un pochino il silenzio dei movimenti, mi sembra che si sia perso un giro in modo un po' drammatico. Così dunque la sociologa Chiara Saraceno sull'impatto della manovra economica, in particolare sulle donne italiane. E invece, a proposito delle conferenza stampa che si terrà al termine del direttivo della BCE, un aggiornamento che riguarda la diretta streaming proposta dal sito del Sole 24 Ore, ilsole24ore.com, in esclusiva in Italia. Dunque darà le parole del presidente della BCE Jean-Claude Trichet, dal quale saranno attesi anche giudizi sulla manovra economica italiana e sul riacquisto dei titoli di Stato italiani. E adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, perché il presidente americano Obama presenterà questa notte un super piano di rilancio dell'economia statunitense, un nuovo pacchetto dunque di misure per la crescita che potrebbe raggiungere 400 miliardi di dollari. Sentiamo. Prende corpo il piano di stimoli fiscali del presidente Barack Obama, il discorso atteso per questa notte a Washington. Si parla ormai di 400 miliardi di dollari di stimolo per l'economia, uno stimolo importante e necessario, auspicato dallo stesso governatore della Federal Reserve Ben Bernanke. Aveva detto: la politica monetaria da sola non basta, e dunque cominciano ad emergere i punti centrali dello stimolo di Obama. Innanzitutto un prolungamento delle deduzioni ai contributi sociali in busta paga, che dovevano scadere alla fine di quest'anno. Si parla di circa 120-130 miliardi di dollari soltanto per quella voce, ma ci saranno anche delle iniziative sul piano infrastrutturale. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E ora un appuntamento: l'alta moda a portata di mano. Questo e altro è previsto per la terza edizione milanese della Vogue Fashions Night Out, organizzata per questa sera da Vogue Italia e dal Comune di Milano. Gli appassionati potranno incontrare i protagonisti della moda nel quadrilatero e poi assistere anche a concerti in collaborazione con Mito e visitare delle mostre. Una manifestazione questa che si svolge in contemporanea internazionale in altre città come New York, Londra e Parigi. Ma proprio in tempo di crisi, che significato può avere una serata, un evento come questo? Adriana Fracchia lo ha chiesto al direttore di Vogue Italia, Franca Sozzani. I negozi creeranno per questa serata dei prodotti speciali, e il ricavato di questi prodotti speciali va per una causa, che in questo caso è aiutare Brera a ritrovare un po' il suo splendore. Gli altri anni abbiamo fatto per il verde, quest'anno facciamo per Brera. Deve essere interpretata come il fatto che se procuri lavoro, crei lavoro, è semplicemente creando economia che si riesce a sostenere. Se ci si richiude tutti nella paura, perché c'è certo chi non può, ma è per quello che abbiamo fatto anche dei prodotti da 30 euro, per dire che possono essere acquisibili anche da persone con minore disponibilità, però che hanno l'occasione di entrare comunque in questi negozi e avere più confidenza anche con i prodotti, con la moda, con gli stilisti stessi che saranno presenti. E quindi deve essere che l'economia crea economia, questa è la verità. E soprattutto, sai che cosa? C'è il sogno, che non bisogna mai dimenticare neanche nei momenti di crisi. In fin dei conti la moda vende sogni, un giornale vende sogni, cioè il sogno comunque è quello a cui una donna non rinuncia mai. GR24, ben ritrovati. La seconda parte. Nella prima abbiamo parlato delle mosse del governo sulla crisi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'abolizione delle province con legge costituzionale e anche l'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio. Il governo va verso la posizione della fiducia al passaggio della manovra anche alla Camera, attesa anche per la decisione della Banca Centrale Europea, oggi sui titoli di Stato italiani. Mentre dall'OCSE arriva un allarme per la crescita, economie, dice l'OCSE, in stagnazione per l'Italia. L'economia sarà negativa nel terzo trimestre. Adesso le altre notizie. A cominciare da quelle che vengono dall'estero, con il colonnello Muammar Gheddafi, che è tornato a farsi sentire e a proposito della sua sparizione dal paese ha parlato di menzogne, ma sentiamo. Attingendo dal suo colorito dizionario, Muammar Gheddafi è tornato a far sentire la sua voce. In un messaggio audio trasmesso dalla TV siriana al Rai, l'ex reis ha definito menzogne e propaganda terroristica le voci della sua fuga in Niger. La NATO sarà sconfitta, siamo pronti a Tripoli e dovunque a intensificare gli attacchi contro i ratti e mercenari, ha minacciato l'ex reis. Una versione che potrebbe essere credibile. Anche il ministro della giustizia del Niger ha escluso la presenza in territorio nigerino dell'ex reis. Intanto la Libia sta lentamente tornando alla normalità. A Misurata, la città più distrutta dal conflitto, simbolo della resistenza, ieri civili hanno ripreso i collegamenti con Tripoli e Bengasi, mentre le banche dalla prossima settimana saranno aperte tutti i giorni. Ma la strada è ancora lunga. Gheddafi rappresenta un pericolo per la nuova Libia e lo resterà fino a quando lui e la sua famiglia saranno in libertà, ha avvertito l'ambasciatore americano in Libia. E l'enorme arsenale del Rais, si parla di migliaia di missili terra-aria, resta una minaccia per la nuova Libia. Ieri a Tripoli un arsenale dell'esercito è stato saccheggiato da persone riconducibili e ribelli. Decine di missili terra-aria sono spariti e potrebbero finire nelle mani sbagliate, anche in quelle dei trafficanti o dei gruppi legati ad Al-Qaeda. Roberto Bongiorni, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, ci spostiamo in Africa per parlare della crisi alimentare che ha colpito il Corno d'Africa e che si acuisce purtroppo sempre di più. Secondo le Nazioni Unite, il numero di persone che rischiano di morire per la mancanza di cibo è salito, pensate, a 750.000. Valentina Furlanetto ne ha parlato con Fabio Pipinato, presidente di Unimondo. Siamo nel mezzo dell'emergenza. Nell'emergenza cosa succede? Succede che arrivano, intanto non possiamo più ragionare come sistema Somalia, ma come sistema East Africa, no? E in quanto le grandi commodity, le grandi derrate, insomma, arrivano da Nairobi, che è il fulcro dell'East Africa, anche perché c'è un governo, mentre sappiamo che in Somalia non c'è nulla. Cosa accade? Accade che i prezzi paradossalmente crescono in dismisura, cioè lo zucchero è triplicato in un anno, mais, patate, l'olio eccetera, tutto costa molto di più. E questo perché? Perché vi è una situazione drammatica di siccità, ma anche l'emergenza stessa, il campo profughi da 500.000 di persone, da Dadaab e altre cose portano che le Nazioni Unite devono acquistare beni. Quando paga l'ONU tutto si alza. E rispetto a quanto sentito nelle parole del presidente di Unimondo sulla crisi alimentare nel Corno d'Africa, c'è un aggravante, perché la fame viene usata anche come arma contro le popolazioni civili e per ricattare il nemico. Il racket dei campi e della distribuzione di cibo da parte degli integralisti islamici minaccia infatti la sopravvivenza degli sfollati. Gianni Milesi, presidente della ONG CESVI. I rischi ci sono, del resto però anche l'imperativo a essere presenti nei momenti di bisogno è altrettanto forte, e quindi è un rischio che va corso. Non mi sembra in questo momento che in Somalia, siamo in Somalia o comunque insomma nei campi profughi somali, nei paesi intorno, siamo esposti così pesantemente a rischi come era successo in Darfur. E ora parliamo dell'iniziativa di Legambiente Ripuliamo il Mondo, un'iniziativa che si definisce la più importante al mondo per quanto riguarda la difesa del pianeta, giunta quest'anno alla 19ª edizione. Legambiente rinnova l'appuntamento con la più grande iniziativa ambientale al mondo in collaborazione con la RAI. Puliamo il Mondo 2011 si svolgerà dal 16 al 24 settembre e vede il coinvolgimento nel mondo di più di 121 paesi per un totale di 35 milioni di persone impegnate ogni anno nella difesa dell'uomo e del suo ambiente. Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente, quantifica la partecipazione dell'Italia. Si prevede una partecipazione molto ampia a questa giornata, che lo ricordo è una giornata mondiale, nacque in Australia e che in Italia da molti anni viene organizzata dalla Lega Ambiente assieme a tantissime altre organizzazioni. Ecco, i comuni coinvolti quest'anno a tutt'oggi sono 1550, verranno pulite 4500 aree, pensiamo che parteciperanno almeno 500.000 di volontari. Quest'anno, oltre a liberare dai rifiuti piazze, giardini, strade, canali, centri storici e quartieri di periferia e a promuovere un'efficiente gestione dei rifiuti, il progetto è finalizzato a tutelare l'acqua. Il nostro paese infatti detiene il record mondiale di consumo pro capite di acque minerali, con il conseguente utilizzo di milioni di bottiglie di plastica da smaltire, le emissioni di tonnellate di CO2 per il trasporto. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E parliamo ancora di ambiente per un'iniziativa, un concerto di beneficenza di Uto Ughi e del suo violino accompagnato dai Filarmonici di Roma. È infatti in programma per il 14 settembre all'Auditorium Parco della Musica proprio della capitale per sostenere i progetti di salvaguardia dei boschi italiani più a rischio. L'iniziativa è promossa dal WWF Italia. Fulco Pratesi, presidente onorario, al microfono di Adriana Fracchia. Quest'anno, ricordiamoci, è la giornata dedicata dell'ONU alle foreste. In secondo luogo è l'anno del cinquantenario della nascita del WWF, e questo anche ci stimola a maggior impegno per le foreste e per la natura, e credo che la collaborazione generosa del maestro Ughi ci darà la possibilità di raccogliere fondi appunto per gestire le foreste. Ricordo che il WWF ha circa 110 OA di tutta Italia, di cui molte sono aree boschive e il costo per mantenerle è certamente alto. I boschi stanno aumentando, però ne perdiamo tantissimi ogni anno per gli incendi, per apertura di strade, speculazione ed altre. Poi oltretutto sono boschi ancora non in buona situazione, i boschi ad alto fusto sono una piccola percentuale rispetto al totale. E ora ci spostiamo al Festival del Cinema di Venezia con la nostra inviata Marta Cagnola. Buongiorno Marta. appena uscita. Oggi vi dobbiamo rendere conto di due proiezioni molto applaudite dopo la mattina difficile di ieri con le contestazioni a Cristina Comencini. Beh, la prima veramente tanto applaudita ed è stata Killer Joe, una commedia molto nera di William Friedkin in concorso. Friedkin è il regista di film come L'esercizio, Il braccio violento della legge, ha messo in scena una famiglia cattiva capace di tutto pur di ottenere denaro, anche di ammassare la mamma. Ebbene, grandi applausi e anche molte risate, perché effettivamente la commedia è grottesca ma fa anche far ridere. Poi un'ottima notizia, applausi anche per la proiezione, la prima proiezione stampa del terzo dei film italiani in gara, L'ultimo terrestre, diretto da Gipi, Gian Alfonso Pacinotti, il vignettista al suo esordio alla regia. Abbiamo detto un applauso alla fine della proiezione, ma anche un grande applauso e molte risate all'inizio della proiezione, che vede film, che vede proprio all'inizio protagonista il nostro Giuseppe Cruciani, con un'edizione molto particolare della Zanzara. Marta, tra l'altro oggi un'edizione particolare della Zanzara, quale? È un'edizione particolare della Zanzara perché c'è un arrivo alieno, ormai il mistero è stato svelato e Giuseppe racconta proprio questo agli ascoltatori di Radio 24, è una chicca che riserva il film in concorso di Gipi, L'ultimo terrestre. Benissimo, quindi siamo doppiamente presenti oggi a Venezia, con te e con Giuseppe Cruciani. E invece per quanto riguarda la presentazione di un documentario di cui ci parlavi prima della telefonata sui 150 anni dell'Unità d'Italia. Un documentario molto importante, Davide Ferrario presenta Controcampo Italiano, Piazza Garibaldi, film dedicato appunto al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Cosa ha fatto Davide Ferrario? Beh, si è messo in viaggio, dopo la strada di Levi, questa volta si è messo in viaggio sulle orme della spedizione dei Mille, partendo da Bergamo, è arrivato fino a Teano e ha cercato di raccontare l'Italia che vede e il futuro che si immaginano gli italiani. Un documentario veramente importante, veramente significativo. Marta, è presto per fare un Toto vincitore? Naturalmente sì, bisogna aspettare almeno domani, che ci dici? Bisogna aspettare ancora qualche film, però direi che i nomi che circolano di più sono quelli di Polanski, di Clooney, il nome di Michael Fassbender e del regista Steve McQueen per Shame, e poi è piaciuto molto anche il giapponese Himitsu, ma mancano ancora un po' di film. Insomma, tutti i nomi importanti. Il Leone completo, sì. Grazie a Marta Cagnola, nostra inviata dal Festival del Cinema di Venezia, e adesso chiudiamo con un altro appuntamento, 20 opere da Boston, altrettante da Bruxelles e dalla Svizzera per una mostra dedicata a Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec è la Parigi della Belle Époque, la Parigi delle taverne del Moulin Rouge, dipinta tante volte dal pittore francese. Arriva infatti a Parma, alla Fondazione Magnani Rocca, da dopodomani, sabato, fino all'11 dicembre. Roberta Pellegatta ha raggiunto il curatore di questa mostra dedicata a Toulouse-Lautrec, Stefano Roffi. È una mostra che presenta Toulouse-Lautrec in un modo completamente nuovo, a parte che il tema Toulouse-Lautrec è piuttosto nuovo per l'Italia in quanto non si fanno mostre da parecchi anni, ma in questa occasione verrà accostato ad altri celebri artisti a lui contemporanei, e da questo confronto emergerà una figura di Lautrec come grande innovatore che ha tratto spunto per le sue opere da maestri a lui precedenti, però ha lasciato moltissimo per tutto il Novecento, al punto che si vedono sue influenze addirittura nell'arte di Andy Warhol. Non solo Toulouse-Lautrec, perché la Fondazione Magnani Rocca ospita anche una collezione permanente. Sì, la Fondazione Magnani Rocca si trova nei pressi di Parma, in campagna, in un parco meraviglioso, abitato da pavoni colorati, pavoni bianchi rarissimi. Nella villa è esposta la collezione che fu di Luigi Magnani, quindi è un luogo veramente molto particolare, di grande bellezza, che contiene capolavori della storia dell'arte di ogni tempo, di Goya, Tiziano, Carpaccio, Monet, Renoir, e oltre a questi periodicamente accostiamo mostre di approfondimento sempre molto gradite dal pubblico. Ed è tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo agli aggiornamenti di borsa, poi l'Italia in controluce, da Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia, l'augurio di una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.